Canto 29 della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 29. Cantando come donna innamorata, continuò col fin di sue parole: Beati quorum tecta sunt peccata. E come ninfe che si givan sole per le selvatiche ombre, disiando qual di fuggir, qual di veder lo sole, allor si mosse contra il fiume, andando su per la riva, ed io, pari di lei, picciol passo con picciol seguitando. Non eran 100 tra i suoi passi e i miei, quando le ripe igualmente dier volta, per modo calevante mi rendei. Neanche fu così nostra via molta, quando la donna a me tutta si torse, dicendo: Frate mio, guarda ed ascolta. Ed ecco, un lustro subito trascorse da tutte parti per la gran foresta, tal che di balenar mi mise in forse. Ma perché il balenar come vien resta, e quel durando più e più splendeva, nel mio pensar dicea: Che cosa è questa? Ed una melodia dolce correva per l'aere luminoso, onde buon zelo mi fe riprender l'ardimento d'Eva, che là dove ubbidia la terra e il cielo, femmina sola e pur testè formata, non sofferse di star sotto alcun velo, sotto il qual, se divota fosse stata, avrei quelle ineffabili delizie sentite prima e poi lunga fiata. Mentre io m'andava tra tante primizie dell'eterno piacer tutto sospeso, e desioso ancora più letizie, dinanzi a noi tal qual un fuoco acceso ci si fe l'aer sotto i verdi rami, e il dolce suon per canto era già inteso. O sacrosante vergini, se fami fredde o vigilie mai per voi soffersi, cagion mi sprona ch'io mercè ne chiami. Or convien che l'icona per me versi e Urania m'aiuti col suo coro forti cose a pensar mettere in versi. Poco più oltre 7 alberi d'oro falsava nel parere il lungo tratto del mezzo che era ancor tra noi e loro. Ma quando i fui sì presso di lor fatto che l'obietto comunque il senso inganna non perdea per distanza alcun suo atto, la virtù, ch'a ragion discorso ammanna, sì, come egli era, candelabri apprese. E nelle voci del cantare Osanna! Di sopra fiammeggiava il bello arnese, più chiaro assai che luna per sereno di mezzanotte nel suo mezzo mese. Io mi rivolsi d'ammirazion pieno al buon Virgilio, ed esso mi rispose, con vista carca di stupor non meno. Indi rendei l'aspetto all'alte cose che si movieno incontro a noi sì tardi che foran vinte da novelle spose. La donna mi sgridò: Perché, pur ardi sì nell'aspetto delle vive luci, e ciò che vien di retro lor non guardi? Genti, vid'io allor, come a lor duci venire appresso, vestite di bianco, e tal candor giammai di qua non fuci. L'acqua splendeva dal sinistro fianco e rendea a me la mia sinistra costa, s'io riguardava in lei come specchio anco. Quand'io dalla mia riva ebbi tal posta che solo il fiume mi facea distante per veder meglio a passi diedi sosta. E vidi le fiammelle andare avante, lasciando dietro a sé l'aere dipinto, e di tratti pennelli aven sembiante, di che egli sopra rimanea distinto di 7 liste, tutte in quei colori onde fa l'arco il sole ed egli al cinto. Questi stendali dietro eran maggiori che la mia vista, e, quanto a mio avviso, 10 passi distavan quei di fuori. Sotto, così bel ciel, com'io diviso, 24 signori, a due, coronati venian di fiordaliso. Tutti cantavan, benedetta tu e nelle figlie d'Adamo, e benedette siano in eterno le bellezze tue. Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette a rimpetto di me dall'altra sponda libere fur da quelle genti elette, sì come luce, luce in ciel seconda, vennero appresso lor 4 animali, coronati ciascun di verde fronda. Ognun era pennuto di 6 ali, le penne piene d'occhi, e gli occhi d'argo, se fosser vivi, sarebber cotali. A descriver lor forme più non spargo rime, lettor, ch'altra spesa mi stringe tanto che in questa non posso esser largo. Ma legge Ezechiel che li dipigne come li vide, dalla fredda parte venir con vento, con nube e con igne, e quai li troverai nelle sue carte, tali eran quivi, salvo tale penne Giovanni e meco, e da lui si diparte. Lo spazio dentro a lor 4 contenne un carro in su 2 ruote trionfale, ch'al collo d'un grifon tirato venne. Ed esso tendea su l'una e l'altrale tra la mezzana e le 3 e 3 liste, sì che nulla fendendo facea male. Tanto salivan che non eran viste le membra d'oro avea quant'era uccello, e bianche l'altre di vermiglio miste. Non che Roma di carro così bello rallegrasse africano vero Augusto, ma quel del sol saria pover con ello. Quel del sol che sviando fu combusto per l'orazione della terra devota, quando fu Giove arcanamente giusto. 3 donne in giro dalla destra ruota venien danzando, l'una tanto rossa ch'appena fora dentro il fuoco nota, l'altr'era come se le carni e l'ossa fossero state di smeraldo fatte, la terza parea neve testé mossa, ed or parevan dalla bianca tratte, or dalla rossa, e dal canto di questa l'altre toglien l'andare e tarde e ratte. Dalla sinistra 4 facean festa in porpora vestite, dietro al modo d'una di lor ch'avea 3 occhi in testa. Appresso tutto il pertrattato nodo vidi 2 vecchi in abito dispari, ma pari in atto ed onestato e sodo. L'un si mostrava alcun de familiari di quel sommo Ippocrate che natura agli animali fe che l'ha più cari. Mostrava l'altro la contraria cura con una spada lucida ed acuta, tal che di qua del rio mi fe paura. Poi vidi 4 in umile paruta, e di retro da tutti un veglio solo venir dormendo con la faccia arguta. E questi 7, col primaio stuolo, erano abituati, ma di gigli d'intorno al capo non faceano brolo. Anzi, di rose ed altri fior vermigli, giurato avria poco lontano aspetto che tutti ardesser di sopra dai cigli.